benvenuti cari amici alla sesta puntata di Vagabondo in giro per il mondo. Come sempre al microfono per voi il vostro speaker vagabondo Fumino e quello che oggi affronto, che mi ha colpito, è il cambiamento, cioè il macro argomento, diciamo, è il cambiamento, i cambiamenti. E questa cosa mi è venuta in mente ascoltando una canzone che appunto si intitola Cambiamenti. La stavo ascoltando e al di là di chi la canta e di chi non la canta, se vi va andrete a basta digitare su un motore di ricerca qualsiasi il titolo Cambiamenti e probabilmente questa canzone verrà fuori. In ogni caso il testo mi ha fatto un po' pensare, perché si dice ad esempio che cambiare la macchina è abbastanza facile, cambiare la donna è molto difficile, o cambiare vita addirittura è praticamente impossibile. Allora, pensando a quello che viene detto in questa canzone, mi è venuto in mente che probabilmente tutto questo è vero, e mi sto chiedendo anche perché è un sentimento, quello della paura, del timore di cambiare, che non nascondo, ha attanagliato anche me in passato e sul quale ho parte lavorato, e da questo mi sto in parte abituando a convivere con questo, ad accettare tutto questo. Però mi immagino che molti di voi si siano trovati in passato di fronte ad una scelta, di fronte a delle situazioni, ad esempio continuo il lavoro che sto facendo oppure lo cambio, e quindi si inizia a mettere in discussione delle certezze, oppure continuo una relazione oppure la interrompo, o cerco di iniziare una relazione oppure resto single. E anche questo probabilmente è un dubbio che ha attanagliato moltissime persone. Quello che mi ricordo molto di bambino è un detto che diceva sempre mia nonna, e diceva così, il proverbio era questo: chi lascia la strada vecchia per seguirne una nuova sa quello che perde ma non sa quello che trova. Questo è proprio un riassunto, una saggezza popolare che secondo me riassume proprio lo stato d'animo delle persone quando si trovano di fronte a un cambiamento. Io non ho idea se questo proverbio che io conoscevo è un proverbio che è locale, che quindi si diceva solo dalle mie parti, o magari lo conoscete anche voi, magari viene detto in tutta Italia, magari è addirittura internazionale, io non lo so questo. Però quello che noto è che le persone sono accomunate da questa ansia, da questa paura di cambiare, di fare dei cambiamenti. Eppure il mondo, se lo guardiamo bene, corre molto veloce. Quindi da una parte mi sembra un po' bizzarra questa cosa qua, perché io quando ero bambino, io non sono mica molto vecchio, insomma, però quando ero bambino io, rispetto a la vita che facevo io rispetto alla vita che fanno ad esempio i quindicenni di oggi è totalmente differente, ma anche i bambini ancora più piccoli. Quando ero ragazzo io non c'era internet, non c'erano i telefoni cellulari, la tecnologia stava iniziando a prendere campo, c'erano i primi personal computer, ma li venivano usati praticamente solo nelle aziende per lavoro, si programmava in DOS, addirittura io l'ho studiato a scuola, quindi a scuola ci andavo 20 anni fa, mica chissà quanto, quindi eppure ci hanno fatto studiare il DOS, cose che adesso sono più che superate. Adesso i ragazzi, ho dei nipoti che hanno pochi anni e già riescono ad andare con tablet, con computer, navigano su internet, quindi è chiaro che il loro mondo, la loro mente è molto differente rispetto alla nostra. Non sto dicendo che sia meglio o che sia peggio, però è molto differente, perché sono abituati fin da piccoli a fare cose che oggi come oggi è comune fare, mentre per noi no, infatti boh, gente che non ha vissuto da piccola magari la tecnologia ha delle difficoltà ad entrarci dentro in una maniera diciamo approfondita. Questa è anche la mia esperienza, per galleggiare nel mondo della tecnologia mi riesce anche a me, come penso riesca a moltissimi di voi che mi state ascoltando, ma io, se devo essere onesto con me stesso, non riesco ad affermare di esserne padrone, e probabilmente i miei nipoti lo saranno, ma lo sono già molto più di me probabilmente. Poi chiaramente io ho delle esperienze fatte in quell'età che loro non hanno, perché probabilmente queste esperienze le sono state sostituite dalla tecnologia, però tant'è, il mondo va avanti. E quello che a me mi sembra bizzarro è, siccome il mondo va così avanti, siccome il mondo corre così veloce, perché l'essere umano ha così tanta paura di cambiare? E non riguarda, secondo me, solo le persone della mia generazione, riguarda prima di noi i nostri genitori e prima di loro i nostri nonni. Il mondo alla fine è sempre cambiato. Se ci pensiamo bene, che ne so, i miei nonni hanno visto una guerra, almeno una guerra piena l'hanno vista. Pensate a un mondo con la guerra, cioè per gente della mia generazione è una cosa lontanissima, per fortuna ci mancherebbe altro, però è una cosa lontanissima quell'esperienza, e noi non l'abbiamo fatta che sia una guerra intesa, la guerra di trincea o come la seconda guerra mondiale. Invece i miei nonni ad esempio l'hanno vissuta, quindi poi per loro gli anni seguenti, il boom economico, cavolo se è stato un grosso cambiamento venire da anni in cui era difficile arrivare a mangiare tutti i giorni fino poi avere questa abbondanza di cose. Quindi è un cambiamento nello stile di vita enorme, il mondo è sempre cambiato, però a un certo punto l'essere umano tende a voler tornare indietro, tende a voler affermare che quello che c'era prima è migliore di quello che sta arrivando. Allora, io suppongo che questa cosa sia così, venga affermato questo, perché in parte c'è quest'ansia del cambiamento, quel cambiamento che sarà, che non conosciamo, di cui non conosciamo gli effetti, magari a volte conosciamo le cause, ma gli effetti non li conosciamo, perché gli effetti sono ovviamente a lungo termine, eppure ci fanno paura. Invece magari di essere incuriositi da un cambiamento, abbiamo paura di questo cambiamento. Per pensare bene a questo, cioè, quante volte vi capita di ascoltare persone che dicano ai miei tempi, oppure anche persone della mia generazione dicono quando ero piccolo io però si faceva così, si giocava in questo modo, si guardava questi film, e infatti ad esempio i film, quante volte vi capita di commentare dei film, però arriva qualcuno, se non siete voi stessi, che affermano che il film più bello è magari un film di 40 anni fa o addirittura di prima ancora, e questo è proprio insito secondo me nell'essere umano. O anche lo sport, ad esempio, quando ero ragazzetto io, ad esempio, c'era il calcio di Serie A che giocava la domenica pomeriggio, con gli orari che cambiavano in base al periodo dell'anno in cui eravamo, giocavano tutte insieme le partite, e poi c'era la corsa al bar per vedersi i gol, per vedere un pezzo di una partita, e poi stavamo una settimana a parlare di quello che era successo la settimana precedente, la domenica precedente. Talvolta per qualcuno c'era il mercoledì di coppa, che ha un fascino particolare. E la tecnologia cosa ha fatto? Il mondo che va avanti cosa ha fatto? Questo oggi non c'è più. Se pensate al campionato di calcio di Serie A odierno, c'è una partita il venerdì sera, una partita il sabato pomeriggio, una partita il sabato sera, una partita la domenica mattina, due partite la domenica. Ormai praticamente non si sa più quando si gioca tutti i giorni, non si sa se è quella giornata prima, la giornata dopo, se è campionato, se è coppa, se sono amichevoli. Giocano di continuo. Questo perché? Perché chiaramente per favorire le televisioni, per avere introiti a livello di soldi per i diritti delle televisioni, dei diritti d'immagine, si è spalmato il campionato in tanti giorni, cosa che oggi è fattibile, perché se una cosa così 30 anni fa non avrebbe avuto modo di accadere, perché nessuno avrebbe avuto modo di seguire tutte queste partite in tutti questi momenti diversi, e quindi era ovvio che le partite fossero tutte concentrate nello stesso momento. Oggi invece basta un click con un telefono qualsiasi, computer dappertutto, quindi è una cosa fattibile, e questo è il mondo che va avanti. Era meglio una volta, era peggio una volta, io non lo so, non sto qui a dire. Quello che io dico è: accettiamo questo cambiamento, cerchiamo di accettarlo. Il cambiamento è una cosa che ci produce delle emozioni, e è preferibile accettare un cambiamento piuttosto che rassegnarsi a un cambiamento, oppure che subire un cambiamento. Per tornare al campionato di calcio, la domenica scorsa c'è stata per la prima volta nella storia il derby di Milano, quindi due delle squadre più importanti del calcio italiano, che sono gestite attualmente da due cinesi. Quindi, se non è un cambiamento questo, cioè c'eravamo abituati al presidente Moratti, al presidente Berlusconi, cioè lì milanesi puri, come è sempre stato nel calcio. E invece cosa c'è adesso a dare vita al derby di Milano, il famoso derby della Madonnina? Due cinesi. Chissà, magari fra qualche anno questo derby diventerà il derby della pagoda, io non lo so. Però ditemi voi se questo non è un cambiamento. Per tornare a quello che avevo iniziato a dire un secondo fa, accettare il cambiamento e non subire il cambiamento. Praticamente è preferibile imparare a sentirsi bene con noi stessi, e questo succede se un cambiamento lo accettiamo. Impariamo quindi a convivere con un cambiamento, a convivere con la nuova situazione che ci si presenta. Questo ci accade praticamente molto spesso, mettiamola così, molto spesso nella vita, e per qualsiasi motivo. E accettare un cambiamento quindi ci risparmia delle sofferenze, perché se pur di non cambiare, per la paura di cambiare, subiamo una situazione che stiamo vivendo, e ad esempio un rapporto di coppia, una situazione lavorativa che è difficile, rapporti con i colleghi, rapporti con un capo, questo, ecco, se lo subiamo ci porta solo delle sofferenze. Accumulare delle sofferenze, poi magari cosa succede? Soffriamo perché abbiamo una situazione lavorativa che non ci piace. Bene, quando torniamo a casa siamo nervosi, siamo più stanchi, siamo meno lucidi, quindi questa nostra situazione interiore probabilmente mette a rischio anche l'armonia che ci può essere all'interno della coppia, o all'interno della casa, o con i figli, o con i genitori. Quindi imparare ad accettare i cambiamenti, a prenderne atto, è molto importante, perché risparmiarci delle sofferenze ci fa vivere più felici, ci fa vivere più sereni. Quello che secondo me è importante alla fine della vita. Qual è il senso della vita? Secondo me il senso della vita, qualcuno dice, nasci, lavora, muori. Sì, in parte anche questo, però questo lo facciamo tutti, cioè ora il lavoro no, però nascere, diciamo vivere, mangiare e morire, questo è comune a chiunque, si va dal Papa al peggio del peggio dell'essere umano che è nato nel mondo. Questa cosa qui accomuna tutti, chiunque. Quello che non accomuna tutti è come affrontiamo questi passaggi della vita, come affrontiamo la vita, come la viviamo. La viviamo felici o la viviamo non felici? Dunque, secondo me il vero senso della vita, o comunque il senso della vita, si trova nel vivere in armonia con se stessi, in armonia con gli altri, in armonia con il mondo che ci circonda. Ora, si dice queste cose come se fosse facile, uno schiocco di dita e tutto è bello. No, non è così, chiaramente. Io comprendo che ci siano tantissime persone che durano tanta fatica, che non ce la fanno a stare sereni, però secondo me questo è molto importante. Secondo me è molto importante accettare quello che accade intorno, accettare nel senso di comprenderlo, di assimilarlo, di amalgamarlo e di affrontarlo per trarne il meglio, per trarne i migliori benefici da quello che ci accade. Perché stare lì a lamentarsi e basta di quello che succede, di quello che non va bene, di quanto era più bello quello che succedeva un mese fa, o di quanto era più bello o più bravo il governo precedente, o il sindaco precedente, o il lavoro precedente, produce solo sofferenza interiore che si ripercuote nell'ambiente di cui siamo circondati, quindi della nostra vita. E questo chiaramente è una cosa negativa che amplifichiamo dentro di noi, diventa per far essere negativo anche altre cose che magari altrimenti sarebbero positive. Bene, cari amici del Vagabondo, siamo partiti da una canzone ascoltata e poi affronteremo anche un tema. In un'altra puntata affronteremo questo tema, che è una cosa che io mi chiedo spesso, ve l'anticipo perché mi va così oggi, me lo chiedo spesso, ad esempio, cosa è che fa la differenza fra le persone? Che ne so, ci sono dei cantanti che inspiegabilmente sono stonati, la musica che fanno non è niente di che, però riescono a fare breccia nelle persone, riescono a fare passare un messaggio. Oppure ci sono degli attori che guardi dei film e dici: cavolo, però effettivamente quest'attore è monoespressione, cioè proprio massimo come il semaforo, tre colori, non riesce a fare niente di più, eppure è un attore magari di primo livello. Ecco, questo è un argomento che prossimamente mi impegno a cercare di affrontare con voi un attimino più approfonditamente. Appunto, siamo partiti da una canzone in questo modo che mi ha fatto un po' pensare e ci ho tirato fuori un pensiero un po' più ampio su una cosa di cui mi occupo in realtà da un bel po' di tempo e mi auguro che... queste mie impressioni, queste mie conclusioni vi siano servite quantomeno a farvi riflettere un po' sul vostro atteggiamento riguardo i cambiamenti. E con questo, cari amici del Vagabondo, io vi saluto qua. Grazie per avermi ascoltato fino a qua. Ci ascolteremo di nuovo presto sulle frequenze di Radio Big World. Come sempre, siate saggi!